Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. John vorrebbe distribuire gratuitamente preservativi agli abitanti dei villaggi, ma ha bisogno di aiuto logistico e di uno sponsor. Accetto di buon grado di aiutarlo e coinvolgo subito il nostro corrispondente in Tanzania e la capo area del tour operator, che a loro volta mi danno disponibilità per aiutarci. Ciao, sono Francesco, ho 36 anni e abito a Treviglio, in provincia di Bergamo. E come professione faccio il parrucchiere per i cavalli. Che cosa c'è di interessante nello stare ad ascoltare in circa mezz'ora, 45 minuti al giorno, la storia di un pezzo di vita capitato a qualcuno? Sembrerebbe dipendere da che tipo di storia, se è una cosa particolarmente avvincente o se è una cosa banale e quotidiana. In realtà questo programma, che è in onda da quasi un anno e mezzo su questa radio, racconta un'altra cosa. Racconta che stare ad ascoltare un pezzo della storia di una persona che non conosci, che magari non è del tuo sesso, che magari non è della tua religione, della tua razza, che sta in un posto diverso dal tuo, che fa un altro lavoro dal tuo, che non ha la tua età, nasconde un piccolo segreto, e il segreto è che quella sua storia è un po' anche la tua. Anche se tu non hai vissuto le sue esperienze, anche se tu non hai la sua formazione e non fai il suo lavoro, un pezzo di vita che appartiene a qualcun altro è un pezzo di vita che appartiene anche a te. Ecco perché questo programma, che si chiama Voi siete qui, racconta questo. Racconta dei piccoli episodi della vita di ognuno di voi che avete voglia di raccontare, di scrivere in una pagina e di inviare a voisietequi@radio24.it e farla diventare una puntata di questa storia, e farla diventare una storia come ha fatto Francesco, che diversi anni fa faceva l'animatore nei villaggi, ha fatto anche il capovillaggio, e un bel giorno gli è successa la cosa che sta per raccontarvi, che vi racconto io, ma di fatto è come se ve la raccontasse lui, perché ha fatto esattamente quella cosa lì, cioè l'ha scritta in una pagina e me l'ha mandata. È una storia che parla di diverse cose, in realtà, come tutte le storie, non parla di un solo argomento, parla dell'Africa in questo caso, parla di un mestiere particolare come fare l'animatore di un villaggio, e parla di amicizie anche per certi versi, ma soprattutto parla di fiducia, parla del fidarsi delle persone e delle cose che ci stanno intorno. 349-238-6666, se avete voglia di mandare un sms e raccontare un piccolo pezzo di una vostra storia che abbia a che fare con la fiducia, oppure se siete davanti al computer anche oggi, 2 di gennaio 2013, abbiamo un profilo Facebook che è Voi siete qui Radio 24, dove sono già arrivati alcuni messaggi. Giovanni mi scrive: non mi sono mai fidato di quelli che mi dicevano che ero un buon a nulla, che sarei finito male. Non mi fidavo e avevo ragione, perché anche se ci sono finito male, poi, proprio grazie al ricordo di quelle loro parole, me ne sono tirato fuori con le unghie e con i denti. 349-238-6666, vi ricordo l'SMS, oppure anche se avete un computer e non avete Facebook, la mail, voi siete qui, @radio24.it. Mi scrive Gerardo: da ragazzino non mi fidavo mai di nulla, forse perché mio padre me lo suggeriva sempre. Ci sono i padri che ti dicono: non ti fidare mai, non ti fidare mai. Poi quando mi sono innamorato, eccolo qui, la tendenza è cambiata e lì mi sono rovinato. Invece Paola scrive: non mi sono mai fidata della pubblicità e fino a prova contraria sto facendo bene. Massimo: non voglio fidarmi dei politici e sfido chiunque a dire che non ho ragione. 349-238-6666. Ma torniamo alla storia di oggi, che è la storia di Francesco. Immaginate adesso, in questo momento, sono più o meno, siete a metà della vostra giornata, sta già quasi diventando buio, perché in inverno succede così, anche se le giornate hanno cominciato ad allungarsi fortunatamente, eppure in Africa, a migliaia di chilometri da qui, fa caldo e potrebbe succedere una cosa così. Inverno 2006, Zanzibar, sono capovillaggio. Lavorando in Africa, spesso ci si imbatte in persone stupende che col solo ausilio della forza di volontà e dell'entusiasmo cercano di aiutare i meno fortunati, raccogliendo quello che si può: soldi, vestiti, medicinali. Ed è così che un giorno conosco John. John è un bel ragazzone nero come la pece, che si presenta da noi in villaggio con una grande idea. Mi spiega che nei villaggi vicini, non quelli con l'animazione all inclusive come il mio, ma villaggi veri, con le case tirate su impastando sterco secco di animali con fango e sassi, insomma in questi posti il problema del sovraffollamento e dell'HIV è sempre grave, e l'unica cosa che viene proposta dai preti missionari è quella di praticare l'astensione, cosa non gradita e tantomeno compresa dalla popolazione indigena. John vorrebbe distribuire gratuitamente preservativi agli abitanti dei villaggi, ma ha bisogno di aiuto logistico e di uno sponsor. Accetto di buon grado di aiutarlo e coinvolgo subito il nostro corrispondente in Tanzania e la capo area del tour operator, che a loro volta mi danno disponibilità per aiutarci. Allora, io ho lavorato per alcuni importanti tour operator per circa 16-17 anni. Ho avuto la fortuna e il piacere di girare praticamente tutti i continenti del mondo, fra cui l'Africa, dove ho passato la maggior parte del tempo. Ho passato molti anni in Egitto e poi ho girato Zanzibar, Kenya e altri posti. L'Africa, come dicono tutti, ti rimane nel cuore. Quello che devo fare è trovare lo sponsor che paghi il trasporto di 30 colli di preservativi, suddivisi in 200.000 confezioni singole che arriveranno dalla Cina. Inoltre, mi dovrò occupare di organizzare la distribuzione nei villaggi della mia zona. Nel giro di un mese trovo lo sponsor, una grande azienda italiana il cui direttore commerciale è stato da noi in vacanza. E trovo anche un paio di pick-up con autisti zanzibarini che si occuperanno della distribuzione. Per festeggiare organizzo anche un aperitivo durante il quale viene presentata l'iniziativa ai colleghi delle varie strutture alberghiere della zona. Insomma, tutto volge per il meglio. Ogni tanto John viene in villaggio a raccontarci che tutto procede e noi lo invitiamo sempre a cena. Passano un paio di mesi, vengo avvisato dal nostro corrispondente che finalmente sono arrivati i colli provenienti dalla Cina. Chiamo subito John e ci richiamo in aeroporto per sdoganare la merce. In alcuni posti sdoganare significa distribuire mance e regalini vari ai poliziotti della dogana. Tornati in villaggio e aperti tutti i cartoni per controllarne il contenuto, mi accorgo che i preservativi in questione presentano esclusivamente scritte in cinese. Non vi è nemmeno un disegno o un'illustrazione per spiegare l'utilizzo. Questo è un bel problema. Non si potranno certo distribuire senza spiegazioni comprensibili. John ci rimane molto male, corre a prendere il PC e mi mostra la mail con la quale chiedeva allo spedizioniere di fare in modo che su ogni confezione singola fosse spiegato l'utilizzo, anche con un semplice disegno. Insomma, il problema va risolto. Dovremo preparare un piccolo foglio illustrato, scritto in lingua locale, con avvertenze e modi d'uso dei condoms, e successivamente incollarli sulle confezioni. John si offre volontario per ritagliare e attaccare i foglietti illustrativi uno ad uno, ma ci chiede di poter soggiornare in villaggio da noi, in compagnia di un suo aiutante. Per i due giorni successivi, John e il suo amico si fanno vedere solo per mangiare. Tutto il resto del tempo lo passano chiusi in camera. Ci dicono che il lavoro che devono fare è molto lungo e difficile. John è un bravo ragazzo, parla tre lingue, ha studiato sicuramente più di me e mi ha dimostrato di essere in gamba. L'istinto però mi dice di andare a controllare quello che sta facendo. Bussa alla porta, John non c'è. Chiedo al suo amico se è tutto ok e mi risponde che sì, è tutto ok, ma ritagliare uno per uno 200.000 fogliettini è una grande seccatura. E ci credo. Chiamo in reception e faccio portare subito il grande taglierino da tavolo. Con quello ci metteranno pochissimo tempo. Mentre spiego al ragazzo il funzionamento del taglierino, con la coda dell'occhio vedo John, che nel frattempo è entrato in camera. Fermo, è in fondo alla stanza. Lo saluto, ma non ottengo risposta. Mi spiega, con tono seccato, che dovevo prima parlare con lui del taglierino, che non dovevo rivolgermi al suo compagno senza avere prima interpellato lui. Dice che gli ho mancato di rispetto, che è molto arrabbiato. Dopo un paio di giorni, John mi chiama e mi avvisa che hanno finito il lavoro e dal suo tono capisco che è ancora arrabbiato. Io sono dispiaciuto per questa piccola macchia sul finale di questa storia. Provo a parlare con John, ma capisco che la magia è finita. Resterà offeso con me per un bel po' di tempo. John è un ragazzone giovane, preparato, una persona veramente interessante. Abbiamo avuto i nostri rapporti sono durati solamente per il lasso di tempo durante il quale abbiamo avuto questa esperienza. E il nostro rapporto purtroppo è finito male e da lì non ci siamo mai più sentiti. La mattina dopo arrivano i due pick-up bianchi per ritirare i colli. John se ne sta in disparte mentre i cartoni vengono caricati sui cassoni. Una volta terminata l'operazione, John viene da me e mi dice, con fare sarcastico, «Perché non controlli se abbiamo attaccato bene i foglietti con le istruzioni, eh? O lo hai già fatto con il mio aiutante?» A me sale il sangue alla testa. «Ok, John, l'hai voluto tu». Dico all'autista di scaricare un cartone e di aprirlo, perché voglio controllarne il contenuto. E se lui dice ancora qualcosa, glieli faccio contare uno ad uno. La scatola viene aperta. John è a fianco a me e mi osserva con tono di sfida. Guardo dentro il cartone e ho un sussulto. Chiedo all'autista di scaricarne un altro e di aprirlo, e poi un altro e un altro ancora. John mi è sempre accanto e mi fissa con rabbia. Io non riesco a muovermi, non riesco a muovermi di un centimetro. Sudo, tremo. Apri un altro cartone, per favore, aprili tutti. Ogni condom è in confezione singola. Con precisione maniacale, esattamente al centro, vi è stato attaccato il foglietto illustrativo. Ma per attaccare il foglietto illustrativo è stata usata una graffettatrice. Il risultato è che tutti i condom sono stati bucati esattamente al centro. Mi gira la testa, ho la vista annebbiata. Come se fossimo in un film, in quel momento inizia a piovere. Chiedo agli autisti di portare gli scatoloni nel magazzino per non farli bagnare. Credo di essere l'unico ad avere capito cosa è successo. Guardo John, gli do un buffetto sulla guancia e sorrido. Perfect, thank you my friend. Esco dal villaggio e cammino senza meta. Sopra di me un gigantesco temporale. È iniziata la stagione delle piogge. Fra un paio di settimane tornerò a casa. Abe samafaga, abe malifaga, abe girafu befaga. Abe shefaga, abe malifaga, abe animo ubefaga. Mobili kolo netafe, netafe. Mobili kolo netafe, amani. Netafe. Mobili kolo netafe. Mobili kolo mani. Imado mobili kolo mani. Faga, abe demisenu faga, abe mogo faga, abe girafu be faga. Le long des longs camions sauvages, le long des longs camions sauvages, le long des longs camions sauvages, le long des longs camions sauvages. La route est longue, mes pieds sont lourds et mes paupières lourdes comme du plomb s'écrasent sur la route. Le long des longs camions sauvages, le long des longs camions sauvages. Monde cassé, frein fatigué, le long du long serpent blanc éblouissant. Tombe les kilomètres, le long des longs camions sauvages. Le monde est mon camion sauvage. Mort les poulets, mort les poulets, mort les enfants, mort les enfants, mort les girafes, mort les éléphants. Le long des longs camions sauvages. Le monde est mon camion sauvage. Abe Sheel Faga, Abe Sama Faga, Abe Mali Faga, Abe Wolo Faga, Girafu Bebe Faga. Mobidi Kolotigi, Ite Feramine, Mobidi Kolotigi, Ika Feramine. Mobili kolo mani, mobili kolo e, mobili kolo mani, mobili kolo e, mobili kolo mani e. Le jour se lève comme tous les jours sur mon camion et mes paupières lourdes comme du plomb s'écrasent sur la route. Et le long des longs camions sauvages, et le monde est mon camion sauvage. Et mobili kolo netafe, et mobili kolo mani e. C'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Économique, c'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Trop de trafic, c'est la panique en Afrique, panique en Amérique, panique aux fanatiques, tanidic, tanidic. C'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Trop de trafic. Eve yala yala, yala yala, kademi selou fara. Ebe yala yala, kayala yala, kamali faga. Ebe yala yala, kayala yala. Mwabili kolontigi, ika feremine. Mwabili kolontigi, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. 349-238-6666, si parla di fiducia in generale, di fidarsi delle persone, anche delle cose. Qualcuno parla di automobili, di case addirittura, però in sostanza si parla della fiducia che si pone nelle mani di qualcuno. E siamo ancora riusciti a non utilizzare per tutta la puntata il famoso detto fidarsi è bene, e non lo useremo mai per tutta la puntata. Attilio scrive: non mi fidavo del mio avvocato quando mi diceva che conosceva uno che investiva i soldi e ne triplicava il valore in pochi mesi. Non mi fidavo al punto che addirittura cambiai avvocato. Un anno fa sono stati arrestati entrambi per riciclaggio. 349-238-6666. Non è esattamente la stessa storia, anzi direi che è completamente diversa. La storia di Francesco però secondo me rimane molto più interessante. Pronto Francesco? Eccomi, ciao Matteo, ciao a tutti gli ascoltatori. Come stai? Molto bene, grazie. Senti, non sei in Africa adesso, vero tu? No. Adesso sono a casa nel mio laboratorio, ho finito di viaggiare e sono in provincia di Bergamo, a Treviglio. Senti, perché allora ricostruiamo un attimo i pezzi. Tu dicevi prima nell'insert che hai fatto questo lavoro, cioè lavorato nei villaggi turistici per 16 anni. Sì, circa 16 anni. Ho fatto una trentina di stagioni. La stagione sarebbe un periodo estivo e poi c'è la stagione invernale, che è il periodo invernale. Più o meno ho viaggiato 16 anni. Sì. E avevi fatto quella che si può chiamare carriera all'interno dei villaggi? Sì, a mio modo sì. Sono partito, mi ricordo la prima esperienza, sono partito gratis alla pari nel 95. Mi avevano mandato in Tunisia a curare i bambini. E piano piano ho avuto le mie esperienze, ho fatto il capovillaggio, sono arrivato a fare il direttore operativo. E dopo un po' di anni di onorata carriera mi sono fermato perché avevo voglia di stare un po' a casa. Ma quindi ti sei fermato appunto perché semplicemente volevi tornare in Italia? Perché si può vivere facendo quel mestiere, si vive, parlo economicamente ovviamente, per il resto poi ognuno si abitua. Certo, economicamente quando hai preso certi ruoli si vive anche bene, anche perché si è spesati da capopiedi, si è ben pagati e si conduce comunque una vita impegnata, molto stressante, ma comunque anche molto divertente. E cosa fa una persona che appunto ha scalato, diciamo, la graduatoria e la gerarchia all'interno dei villaggi turistici e dopo 16 anni torna a casa? Che cosa fai adesso, Francesco, nella vita? Cosa fa? È difficile, perché quando sei via hai una certa autorità, magari hai anche certe competenze molto importanti. Tornando a casa veramente scopri che non sei più nessuno. Ed è molto difficile reinserirsi, soprattutto dopo tutti questi anni. Io mi sono inventato un lavoro che penso che non faccia nessuno al mondo per adesso. E che è esattamente? Non so come descriverlo, faccio il parrucchiere per i cavalli fondamentalmente. Ma scusami, per i cavalli, nel senso fai il parrucchiere per i cavalli che fanno le mostre di bellezza? Esistono, innanzitutto, esistono mostre di bellezza per cavalli? Sì, sì, certo, ce ne sono tantissime, di tanti modi, in tutto il mondo praticamente. Sì. E quindi tu cosa fai? Fai tipo la piega, tagli le criniere dei cavalli o i peli dei cavalli? No, io le pieghe non le faccio, insomma. Invece aggiusto le code o aggiusto le criniere per i cavalli che magari le perdono o le spaccano, o magari ci sono cavalli che hanno bisogno di criniere più lunghe o di code più folte, oppure le decoro, faccio anche delle decorazioni, cioè, comunque lavorando il crine. Ma fai degli extension, tipo? Esattamente. Faccio delle extension, ci sono due o tre modi di applicazione diverse, insomma, a seconda delle esigenze del cliente e appunto del suo cavallo. Senti, scusami, no, avrai un sito, no, Francesco? Dimmelo che ci vado immediatamente a vederlo, perché... Sì, si chiama Umpi Horse, U-M-P-I, Horse di cavallo, okay. umpihorse.it. Ok, l'ho già trovato. Accessori per la cura e la decorazione del cavallo. Ma fai delle criniere rosa? Anche, sì, quelle sono quelle decorative, sono ricolorate per chi vuole divertirsi. Senti, e c'è mercato per questo lavoro? Ci sono persone che ti chiedono, si lavora, insomma? Allora, c'è mercato perché qualcuno comincia a chiamarmi, nel senso, adesso più o meno ogni settimana ho due o tre appuntamenti, insomma, piano piano si comincia. Va bene, insomma, in bocca però, al... insomma... Senti, quanto costa fare una criniera? Più o meno dalle 100 euro in su, dai. Bello, per rimanere vago. Senti, torniamo a... vabbè, è la prima volta che sento uno che fa questo mestiere e adesso, diciamo, me lo segno, me lo metto da parte. Ma infatti io sono il sogno di ogni azienda. Se tu vai su Google e scrivi extension cavalli, esco io e sempre io. Ah, sei il sogno, nel senso che come indicizzazione sei il primo che appare. Esatto. Senti, invece... Primo su Google. Torniamo un attimo in Africa. Innanzitutto, io non, sì. Non sapevo che i capivillaggio facessero anche, diciamo, della solidarietà, oltre che fare del turismo, insomma. Ma succede, perché delle volte succede, si trova in certi contesti dove le persone magari un po' più sensibili si accorgono che è difficile comunque lavorare magari in Tanzania, vedere fuori quello che succede e essere all'interno, avere i cocktail gratis e fare una bella vita. Quindi qualche volta, quando si ha tempo e voglia, a me è successo qualche volta di dare una mano comunque alla gente che sta fuori. Serve a poco, serve a niente, però a me ha fatto stare meglio. Senti, che fine hanno fatto quei 200.000 profilattici bucati? Non lo so. Cioè, sono stati... Non lo so, perché io dopo due settimane me ne sono andato perché la mia stagione era finita. E li avevo chiusi in un magazzino e sicuramente sono stati buttati, anche perché avevo lasciato detto di buttarli via. Assolutamente... Diciamo, speravo che fossero stati buttati e non invece... Sì, ma sicuramente, anche perché, ti ripeto, io dico non lo so, perché poi sono partito e comunque sono stati messi in un... Quando ho dato le consegne alla persona che doveva sostituirmi, sì, okay, ho detto di buttarli, chiaramente. Qual è la cosa di più che ti manca dell'Africa? Visto che appunto si dice, no, quella roba lì, che l'Africa ti rimane nel cuore, eccetera, eccetera. Quella roba lì, Matteo, c'è e ti rimane dentro per un po', insomma. Io vedo, riconosco, credimi, le persone quando tornano dai viaggi in Africa dagli occhi, restano leggermente più lucidi, lo vedo, insomma. Ti rimane quella cosa lì, che ti resta, ti mancano, a parte, vabbè, le solite cose, i tramonti, i bambini, le persone, però... Senti, e invece... Invece scusami Francesco, perché devo chiudere, devo mandare la borsa, visto che è il 2 di gennaio, inizia l'anno e magari qualcuno vuole farsi un viaggio, tu che ne visti tanti, di un posto dove andare a svernare adesso col freddo che fa qui. Capoverde, tutta okay. la vita. Ok, ti ringrazio moltissimo Francesco per la telefonata, la chiacchiera e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie Matteo, ciao a tutti. Ciao, grazie mille, ciao. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Ha una faccia molto simpatica Francesco nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi siete qui. Ed è una foto che ha scattato, immagino, non mentre fa le station per i cavalli, ma mentre si trovava in qualche posto splendido a fare il capovillaggio. Lui ha... non ha proprio tantissimi, rimanendo in tema di extension, non ha proprio tantissimi capelli in testa, però ce li ha coperti con degli occhiali da sole. Ha una bella barba folta, la faccia schiacciata perché evidentemente ha il sole negli occhi. È a petto nudo, ma si vedono solo le spalle, ma soprattutto alle sue spalle, dietro di lui, si vede un cielo azzurro e il mare. Fiducia. Sostantivo femminile. Attribuzione di potenzialità conformi ai propri desideri, sostanzialmente motivata da una vera o presunta affinità elettiva o da uno sperimentato margine di garanzia. Ottimistica aspettativa riguardo al futuro. Questione di fiducia, quella che il governo pone al Parlamento, subordinando la propria sopravvivenza in carica al voto di questo circa uno specifico provvedimento. Etimo, dal latino fiducia, derivato di fidere, fidare, fidarsi, data prima del 1342. Pietro scrive al 349-238-6666: non mi sono mai fidato della tenuta della mia automobile. Ho fatto l'assicurazione 24H24, scrive, servizio completo di recupero del mezzo. Dopo 2 mesi mi ha lasciato in panne. L'ho fregata io. 349-238-6666. Si parla di fiducia grazie alla storia che ci ha mandato Francesco, ma si parla anche e soprattutto d'altro. Visto che Francesco era in Africa a fare, era Zanzibar per l'esattezza, a fare il capovillaggio, e io gli chiedevo, ma non sapevo che nei villaggi turistici si facesse anche della solidarietà e si aiutassero le persone che stavano meno bene di noi o di voi lì. E allora abbiamo pensato di fare una cosa, abbiamo pensato di chiamare una persona che è in Africa non a fare del turismo, ma è lì proprio per quel motivo lì, insomma, per dare una mano alle persone o ci spiegherà meglio lei a fare che cosa. Lei si chiama Benedetta Di Cintio ed è una cooperante che si trova in questo momento in Repubblica Centroafricana. Pronto Benedetta? Pronto Matteo, ciao. Ciao, buongiorno e benvenuta. C'è credo un ritardo per via della distanza, ovviamente, perché in questo momento ti trovi appunto... guarda, stavo guardando adesso, la Repubblica Centroafricana è proprio perfettamente nel centro dell'Africa, Benedetta. Sì, io infatti sono a 50 chilometri da quello che definiscono il cuore geografico dell'Africa e quindi che è l'ombelico del mondo. Quanti gradi ci sono in questo momento? A 50 gradi all'ombra, in questo momento. Ok, perfetto, 50 gradi all'ombra. Senti, quindi è il 2 di gennaio eppure lì il clima è... Non so, perché sembra sempre impossibile che quando qui ci sono 2 gradi sotto lo zero ci sia qualche luogo nel mondo in cui ci sono più di 20 gradi, no, e invece è così. Qui siamo in piena stagione secca, quindi vuol dire che è finita la stagione delle piogge e da adesso fino a maggio non vediamo più l'acqua e quindi la temperatura... aumenta tantissimo fino a che poi a maggio, fine aprile, inizio maggio comincerà la stagione delle piogge, quindi fa proprio caldissimo. Senti, l'inverno al contrario. Benedetta, mi dici esattamente che cosa fai lì? Allora, io praticamente sono arrivata in Repubblica Centroafricana con Copi nel 2010, sono già 2 anni e mezzo. Sì. Sono in quella che possiamo definire la regione sud-est del paese, che confina con la Repubblica Democratica del Congo e con il Sud Sudan. Sono a 150 chilometri dalla frontiera con il Sud Sudan. Questa regione, noi con Copia abbiamo iniziato a lavorare in questa regione dal 2009. Scusami, Benedetta. Dal 2008 tutta la zona perdonami. È stata interessata dal problema dei ribelli della LRA. Ok, scusa, però volevo solo... Benedetta, fermati un secondo. Fermati un secondo. Uganda nel 96 da CONI. Scusami, volevo solo spiegare che cos'è COPI, che è una ONG che si occupa di cooperazione internazionale, giusto? Sì, si occupa di cooperazione internazionale, quindi attraverso fondi privati e fondi pubblici noi gestiamo dei progetti di sviluppo o di risposta ed emergenza, come nel mio caso, alle popolazioni secondo le loro problematiche e i loro bisogni. Ok, ok, ok. Senti, mi dici però proprio in Africa quotidianamente e in America Latina soprattutto. Quotidianamente, cioè quando ti alzi la mattina e poi vai a letto la sera, che cosa fai nell'arco della tua giornata? Allora, io mi sveglio la mattina alle 5 del mattino, 5 e mezza siamo già in piedi perché qui il sole sorge presto, e dipende dalle attività, perché qui abbiamo due tipi di attività, abbiamo attività agricole e abbiamo attività di supporto psicologico e di supporto ai bambini soldato, agli ex bambini soldato, che appunto sono quei bambini che sono stati rapiti dai ribelli e che riescono poi ad uscire dal gruppo ribelle e a ritornare tra virgolette a casa. Okay. Quindi secondo le attività abbiamo delle equip sul terreno di animatori locali, di supervisori, quindi di tecnici centroafricani, veterinari, agronomi, psicologi, con i quali lavoriamo per sviluppare le attività. Okay. Quindi okay. Un giorno vado in campagna, un giorno vado a fare i gruppi di ascolto con le donne e i bambini, un altro giorno c'è qualcuno da accompagnare all'ospedale, dipende dalla giornata e dipende da quello che succede. Quindi, però fino a sera è tutto un gran lavorare. Quindi in sostanza è, come dicevi giustamente, cioè quando si parla di supporto è che quello che c'è da fare lo si fa, mi sembra di capire. Più o meno, no? Quello che c'è da fare lo si fa, soprattutto si parla molto con le comunità e si cerca di accompagnarle verso la conscientizzazione su alcuni aspetti, alcune tematiche e verso il recupero, in questo caso, delle loro capacità produttive e il recupero a livello psicologico proprio del senso della speranza. Sì. Scusa. Perché comunque l'esperienza dei ribelli è qualcosa che ha distrutto questa popolazione, gli ha tolto ogni forma di speranza verso il domani e li ha spaventati. E quindi noi siamo qui anche per recuperarli a livello appunto psicologico. Certo. E per farli supportarli. Guardare ancora avanti. Ecco. Benedetta, scusami, ma come sono visti i cooperanti, no? Le persone come te e quelle che insomma fanno il tuo lavoro e che arrivano dal mondo occidentale, sono bianchi, sono visti come persone ricche, immagino. Come sono percepiti dalla popolazione? Qui ci chiamano Munju, che è una distorsione della parola bonjour, perché è una vecchia colonia francese. Ah, ok. E noi siamo bianchi, come dicevi tu, siamo l'altro mondo, però devo dire che soprattutto in questa zona la nostra presenza è molto ben accetta, perché loro erano in una situazione di panico e di paura e noi siamo arrivati, quindi il fatto che noi siamo qui con loro gli dà comunque un senso di speranza e di protezione, nel senso che loro non si sentono abbandonati, perché è una zona anche molto lontana dalla capitale e quindi molto sotto, cioè molto meno sviluppata rispetto al resto di tutto il paese. Chiaro. E quindi diciamo la nostra presenza dà conforto. Ok. Senti, tanto conforto. Benedetta, io purtroppo il tempo sta scadendo, quindi ti devo salutare. So che è molto breve, ma è questo. Però volevo chiederti, so che è una domanda che può sembrare stupida, perché noi non siamo lì e siamo molto più lontani, ma c'è una cosa qualcosa che noi possiamo fare sinceramente e onestamente per l'Africa o banalmente per la Repubblica Centrafricana? Ognuno di noi può fare qualcosa e dico che l'aiuto delle persone del nostro mondo, chiamiamolo così, è ancora più importante rispetto forse all'aiuto che noi ogni giorno diamo qui, perché qui mancano i mezzi e quindi io dico sempre che non ci vogliono delle grandi donazioni, non ci vogliono dei grandi gesti, ma anche fosse un piccolo gesto, ecco, qui 10 euro possono aiutare a comprare dei quaderni, possono aiutare a comprare un banco per un bambino, possono essere di grande aiuto. Quindi una condivisione, piccola condivisione per poter dare poi agli strumenti a chi è qui di poter lavorare, è una catena. Okay. È una catena che comincia dal nostro mondo. Va bene, Benedetta. Io, i mezzi arrivano da noi. Ti ringrazio moltissimo. Ricordo che se qualcuno è interessato esiste un sito che è www.coopi.org con la doppia O. Benedetta, ti ringrazio tantissimo e in bocca al lupo per tutto. Io vi saluto tanto, grazie mille e un bacio dal cuore dell'Africa a tutti quanti. Ciao, buona giornata, grazie Benedetta, grazie mille. Ciao, caro, ciao, grazie. Ciao. 349-238-6666. Ritorniamo da queste parti, cioè ritorniamo al 2 di gennaio a Milano e parliamo di fiducia. E ho trovato un video in cui c'è Francesco che spiega come montare gli extension per i cavalli. Io ve ne farei sentire un pezzo. Lo facciamo sentire così, Peter, se mi abbassi la base. Vi faccio vedere come si applicano un extension un piorso. Ci vogliono 30 secondi. 30 secondi, ecco. È un dritto del cavallo. È un po' pane e salame, però più o meno è così. Andate, magari lo carichiamo sul profilo Facebook. Ci sono dei messaggi che continuano a parlare di fiducia. Alcuni si fidano, altri meno. Sara dice: non mi fidavo del sole timido che era uscito questa mattina sopra casa mia e sono uscita con l'impermeabile pesante e la pioggia che sta scendendo ora mi dà ragione. È un po' invidio Benedetta che si trova a 50 gradi all'ombra. Questo, diciamo, per la temperatura sì, forse per il resto un pochettino di meno. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, 2 gennaio 2013, che sono Peter Bescapè dall'altra parte, Tiziano Bonini, Margherita Ina e soprattutto Francesco Benedetta, chiaramente, che abbiamo sentito dall'altra parte del mondo praticamente. La puntata di oggi era la storia di Francesco e anche lui è un punto rosso su una mappa. Buongiorno a tutti, mi chiamo Gino, vivo a Catania e la storia che racconto è di mia mamma. Questa è la mia storia e io vivo qui.